di essere venuti anche a questa serata, la presentazione del nuovo libro del professor Giorgio Dobrina, che tutti conoscete per le sue grandi doti come medico, come insegnante all'università, come ricercatore e come divulgatore di conoscenza, di competenze. È da tanti anni che collaboriamo insieme, lo ringrazio tantissimo anche in questa occasione perché la biblioteca crede molto nella missione di diffondere una conoscenza sicura, certa, di avere delle informazioni chiare per il bene comune, e in questo senso il professor Dobrina con la sua competenza ci dà una mano nel così combattere anche, passatemi il termine, una certa ignoranza, una certa confusione che a volte viene ingenerata anche ad arte, così tra la popolazione. E invece il compito di una biblioteca e delle persone che lavorano, delle persone che si occupano di scienza, è quello invece di dare delle certezze e di lavorare per il progresso e per il bene comune. Questo è il nostro piccolo contributo, il grande contributo lo fanno però gli scienziati e le persone che si adoperano tutti i giorni per migliorare la nostra vita. Il professor Dobrina però è anche, oltre che uno scienziato, è un divulgatore, un ottimo divulgatore, perché sa arrivare al cuore e alla testa delle persone con dei messaggi chiari e spesso anche molto efficaci, e soprattutto anche con una vena di ironia e di grazia che fanno assorbire meglio tutto quanto. E questo è un nuovo esempio. Allora, abbiamo un libro di altissima levatura con la prefazione del professor Ciardi, abbiamo però anche uno scopo umanitario in questo libro, perché il denaro verrà devoluto per i terremotati, posso anticiparlo, mi sono presa questa libertà. Ecco, quindi c'è sempre questo valore aggiunto nelle cose che vengono fatte dal professor Dobrina. Io vi ringrazio di essere numerosi anche questa sera, abbiamo davanti a noi una bella e piacevole, oltre che interessante, serata. Vi ricordo anche i prossimi due ultimi appuntamenti per questa stagione, che saranno giovedì prossimo con un libro, un romanzo di Alex Boschetti, e il venerdì invece con un libro sulla storia della guerra coloniale in Africa con Dodaro e gli altri autori, un'edizione di Selverio. Chiudiamo in bellezza questa prima fase in attesa di traslocare, perché la biblioteca verrà qui durante l'estate presso il centro Trevi, quindi sarà tutto un insieme, ecco, di attività che finalmente confluiscono in un unico grande edificio. Vi ringrazio e cedo subito la parola al nostro protagonista. Grazie a voi. Allora, grazie a Valeria Trevisan, buonasera a tutti. Non mi dispiace che abbia fatto riferimento ai diritti d'autore, volendo farvi questa precisazione. Come ben sa il mio amico Frangipane, i diritti d'autore dei nostri libri ci servono appena per un gelato alla crema, quindi mandare tutti i diritti d'autore ai terremotati è un gesto puramente simbolico. Però l'ho voluto fare, grazie a Valeria che l'ha voluto ricordare, perché sono stato personalmente a Norcia a vedere il disastro. E mi sono accorto che sono andato a comprare una tonnellata di salumi per tutta la famiglia veronese, di mia moglie, eccetera, proprio per dare un gesto di solidarietà. E ho capito che quel gesto che ho fatto 500 km in più, senza farmi il selfie, senza fotografare la casa di Roccata, ma per dare dimostrazione che siamo vicini in questa dramma, ho capito che c'è stata un po' di pelle d'oca sia in me che nel Norcino che ci ha venduto i salumi. Per cui mi rendo conto che questa cifra che arriverà, che io ho già anticipato, è ridicola, ma è un simbolo di solidarietà umana che mi sembrava giusto che ci fosse. Quindi la prima volta che mi posso permettere di dire compratelo e regalatelo, perché il vantaggio è. Cominciamo con questa fantastica frase di un grande uomo, lo avete riconosciuto, questo è Steve Hawkins, quello dai buchi neri eccetera eccetera, che dice che il più grande nemico del sapere non è l'ignoranza, ma è l'illusione di sapere. Questo è un concetto filosofico che vale per tutto, ma vale in particolare anche per il placebo, che di cui tutti parlano e pochissimi sanno cos'è e i limiti che ha. Questo è il libro. Sottolineo che Marco Ciardi è il professore di scienza e delle tecniche dell'Università di Bologna, è un nome molto grosso dal punto di vista storico proprio, famosi sui libri su Atlantide, sempre in maniera non fantascientifica ma documentata, eccetera. E volevo farvi vedere che in questo imbuto significa che questo libro non può essere raccontato in 50 minuti. Ho dovuto distillare qualcuna di queste palline, ve la segnalerò nel corso di questa chiacchierata, e altre, chi ha preso il libro se le legge, perché è impossibile. Un'altra difficoltà che ho avuto è questa. In questa trattazione ci sono elementi anche di alto livello scientifico che non potevo tradurre dal medichese in maniera molto semplice. Per cui quelli che sono esperti resteranno un po' delusi, quelli che sono meno esperti troveranno qualche cosa di più difficile, ma è una sintesi un po' problematica. Perché 5.000 anni di effetto placebo? Perché è da 5.000 anni che noi abbiamo tracce scritte di medicina. Ovviamente l'uomo è nato molto prima, no? Parliamo di migliaia, migliaia, forse milioni di anni, ma finché non scriveva qualcosa riguardante la salute noi non potevamo sapere nulla. E si trattava di una paleomedicina in cui potevamo avere delle tracce non scritte, rappresentate soprattutto da graffiti rupestri o informazioni da etnie molto primitive che vivono come si viveva nella preistoria, ma che sono diventate sempre più rare, quindi non possiamo avere grandi esempi. È una medicina che possiamo in base a questo considerare istintiva, basata sul comportamento degli animali. L'animale si scotta e mette la zampina nell'acqua fredda, l'uomo copia e fa anche lui le stesse cose. L'assistenza del partoriente è sicuramente un'abitudine che l'uomo ha tratto dagli animali. Insomma, sono cose che possiamo immaginarci. Ci sono già delle fratture ossee, riparate alla meno peggio, in maniera scomposta, ma che dimostrano che l'uomo ha in qualche modo è intervenuto sulla salute. Non possiamo sapere nulla sull'assunzione di rimedi, perché i rimedi preparati, qualsiasi tipo di preparato per bocca, se non viene scritto non lo possiamo sapere dai graffiti certamente. Arriviamo a una medicina fin qua con gli anni, cioè da quando c'è la storia, grosso modo 5.000 anni, 3.000 anni prima di Cristo e 2.000 anni dopo Cristo, in cui questa, con grande difficoltà anche per alcune scritture, basandoci su documenti dei Sumeri, dei Babilonesi, degli Egizi, dei Cinesi, dei Fenici, dei Nabatei, con scritture molto diverse una dall'altra. Voi pensate che i Fenici avevano, in cui la cui lingua è stata scoperta e tradotta molto tardi, era fatta solo di consonanti, non avevano vocali, quindi per interpretarla c'è stato un inno di Dio. Bene, da questi cominciamo a avere delle tracce scritte e riconoscibili, anche riconoscibili per le patologie trattate, pur nella pochezza dei documenti. Si parla già di lebbra, di morbillo, di colera, non si parlava ancora dei vaccini, ci sono gli antivaccini, gli antimorbillo, bisogna fare la combattere. Colera, malattie venere, ittero e reumatismi. Quindi già con queste lingue primordiali, diciamo, di scrittura abbiamo qualche cosa. Un documento che meritava una citazione a parte è questo che vedete qua, esposto al Louvre, è la stele col codice di Hammurabi. Hammurabi è un re babilonese vissuto circa 1500 anni prima di Cristo, ed è straordinario questo documento, a parte la statuina di alabastro di pietra nera, che è alta 2,5 metri, 2,25 metri, ed è larga quasi 1 metro. E qui la vedete. Perché è interessante? Perché ci sono problematiche che dalla medicina così antica sono rimaste attuali, sembra di leggerle sul Corriere della Sera di oggi. Eccola qua. L'articolo 18 dice: se un medico opera un paziente per una grave ferita con un coltello di bronzo e ne causa la morte, o se apre l'ascesso oculare di un uomo con un coltello di bronzo distruggendo l'occhio, lì si dovranno tagliare le dita. Quindi sanzioni molto più serie di quello che succede oggi, in cui la gente al massimo va agli arresti domiciliari, che sono spesso dei castelli. Articolo 221: se un medico riduce un osso rotto di un uomo o cura i suoi intestini malati, il paziente dovrà versargli 55 sicli, cioè è previsto anche l'onorario. Stiamo parlando di 4.000 anni fa. Ma guardate questa. le donne vanno protette contro i maltrattamenti del marito, viene alzato il salario dei lavoratori o sono stabiliti i giorni di riposo annuali. Quindi sono cose di estrema attualità, compresa la violenza sulle donne. Arriviamo alla medicina scritta, e allora la medicina scritta ci consente valutazioni un momentino più raffinate. È una medicina che inizialmente non poteva che essere questa, cioè una medicina magica, sacerdotale, delegata a sacerdoti, a sciamani, a capi tribù, in cui elementi importanti, protagonisti sono preghiere, sacrifici rituali di uomini o di animali, amuleti e talismani. Questa è un'attribuzione istintiva delle malattie all'ira degli dèi, cioè c'è stato un momento in cui era facile pensare che i malanni ci venissero come punizione divina, e allora questa era la conseguenza di relegare i detentori della salute a sacerdoti, eccetera. Poi c'è una medicina empirica che viene subito dopo con dei guaritori, perché c'è la consapevolezza, che però è più tardiva, che le cause di malattia possono essere anche non solo divine, ma anche cause naturali, e quindi curabili con qualche cosa di naturale, non soltanto con i riti propiziatori. Poi arriviamo alla nostra medicina: necessità di osservare, sperimentare e documentare, che la medicina basata sulle prove, che la traduzione italiana più corretta dell'inglese evidence-based medicine, è da dire subito che questo tipo di cosa è una vaghezza. Non tutta la medicina che abbiamo è basata sull'evidenza, anzi una minoranza esigua anche della medicina convenzionale è una medicina basata sull'evidenza. Ma che cosa si usava come terapia, che risulta essere nella grandissima parte terapia placebo? Si usavano cose che hanno dell'inverosimile. Io qualche volta le metto per stupire, non in questa sera, ma per dirvi che è veramente da allibire cosa ha saputo fare l'uomo per curarsi: escrementi di coccodrillo, sperma di rana, zoccoli di asino, sangue coagulato, carni putrefatte, crani di serpente, denti suini, peli e capelli, estratti d'organo, eccetera, eccetera, grasso di eunuco. Mi sono immaginato un reparto di farmacia in un harem dove era più facile procurarsi il grasso di eunuco, perché oggi avremo delle difficoltà a trovarlo. Poi qualcosa di meno raccapricciante: saliva, sudore, lacrime, farina, mollica di pane, ricotta, eccetera. Tutte queste sono state usate con alcuni benefici reali legati all'effetto placebo che qualsiasi tipo di provvedimento di questi aveva. Ma uno dice, beh, ma era proprio conquisti qua 2000 anni fa. Adesso vi faccio vedere cosa si vendeva nelle farmacie di Parma e come viene esposto ancora nella università. Io l'ho trovato lì. Placebo, dopo Cristo, ma usati ancora oggi per sempre. La triaca è un intruglio preparato da Andromaco. Chi era Andromaco? Era il medico di Napoleone, di Nerone. E il quale ha fatto questo intruglio, ha avuto i suoi vantaggi anche economici, e troviamo che questa compagnia degli speziali la usava ancora nel 1690, e la testimonianza della mia collega Gabriella Coruzzi, farmacologa di Parma, mi dice che fino al 1850 era in vendita nelle farmacie di Parma. Verso il mese di maggio, radunate tutte le vipere, si ammazzeranno con l'intento e l'assistenza degli illustrissimi signor priore e signori protomedici, e qui si cuoceranno secondo l'arte, e separata la carne dalle spine, non so dove sta la spina nei serpenti, di quella si farà pasta. Questa intrasisci deve seccarsi in luogo ombroso, e verso la metà di agosto, presente tutto il collegio di medicina, quindi ci eravamo dentro sia io che il dottor Luchini, i nostri antenati, si mescoleranno con tutti i componenti. Ora, 1690, contemporaneamente, guardate in altre discipline scientifiche vere, come la medicina non è, guardate che personaggi lavoravano. Harvey, che con niente scopriva la circolazione del sangue. È facile adesso, vene, pensate nel 500 solo su base di preparati anatomici. Galileo, che scopriva qualche cosa che non doveva scoprire, perché avrebbe sofferto un po' meno per un po' di anni. Cartesio, assertore del metodo scientifico, del calcolo, Pascal, calcolatrice, regola, insomma, gente che ha rivoluzionato, e Newton, che a parte la parabola, la fasulla della mela, ha scoperto una delle leggi fondamentali della fisica. Quindi, mentre le scienze già in quell'anno davano una dimostrazione di grandissimo livello, noi abbiamo che noi medici eravamo ancora in questa situazione. Allora, queste sostanze erano placebo, ma cos'è il placebo? Allora, il placebo è una sostanza che è priva di attività farmacologica specifica, calcio, talco, sabbia, quello che volete, ma di possibile efficacia se data a un soggetto vigile e desideroso di ricevere un trattamento. Quindi farà qualche cosa in virtù delle attese del paziente, ma non perché lui fa qualcosa di farmacologico. La seconda cosa importante, che spesso viene trascurata, è che non è solo una sostanza, ma placebo può essere un'assicurazione tranquillizzante del medico, di un genitore, il conforto di un amico, il conforto di un sacerdote, un gesto di attenzione, una mano sulla spalla, un ambiente sicuro, una procedura strumentale e anche, come vedremo, un atto chirurgico. Quindi non solo un farmaco. E allora cos'è l'effetto placebo? Banalmente l'effetto placebo è l'effetto fatto dal placebo. Ma se vogliamo andare un po' più sul fine, diciamo, questa è una definizione che è una delle più complete, che è fatta da un grosso gruppo italiano di neurofisiologi piemontesi di Torino, che è un po' sofisticata, ve l'ho addolcito un po'. Cos'è questo effetto placebo? Visto che non produce niente, non ha un'attività farmacologica, com'è che fa qualche cosa? Induce un cambiamento favorevole, altrimenti si chiamerebbe nocebo, all'interno del corpo e del complesso corpo-mente, dovuto al significato simbolico che il soggetto attribuisce a quello che gli viene consigliato. Io do un significato simbolico alla cura e questo significato simbolico che io do mi fa modificare il mio complesso corpo-mente a produrre sostanze vere. Quindi non è un effetto psicologico puro, è un effetto psicosomatico con produzione di ormoni, di analgesici, di neurotrasmettitori e via dicendo. Importante è, a dimostrazione che esiste, che se l'uomo è anestetizzato, se l'uomo è un cranio leso, non capisce, oppure se non riceve nessuna informazione, nessuno gli dice che gli si sta dando un placebo, l'effetto placebo non c'è. Quindi il soggetto deve essere consapevole di ricevere una terapia placebica, non deve essere cranio leso e non deve essere in anestesia generale. Guardate la differenza della consapevolezza. Qui si può fare soltanto con terapie in flebo, terapie che non siano per bocca. Allora, qui ce lo metto, il paziente lo si immagina, che dice ho tanta cefalea o mal di testa. Il medico gli dice sì, ora le ho messo il farmaco nella flebo, entro ora e le passa, vedrà. Il farmaco messo ostentatamente, dichiaratamente nella flebo, è in realtà acqua distillata o soluzione fisiologica, non c'è niente. Però lui sa che riceve. La cefalea si riduce o passa. Questo si chiama trattamento open, trattamento dichiarato che il paziente sa di ricevere. Avviene la stessa cosa nella scenetta 2, in cui gli dice non posso aggiungere altro per ora, un po' di pazienza, ma lui mette la stessa soluzione fisiologica di sinistra e il paziente continua ad avere cefalea. Perché non è stato avvertito, non ha recepito il messaggio che veniva trattato. Quindi la consapevolezza, oltre all'apprendimento, è una condizione sine qua non dell'effetto placebo. Questo vale per tutte le sostanze importanti, dalla morfina, nomi che voi conoscete, ve li ho messi anche perché sono più commercialmente recepibili, morfina, solfato cloridrato, brufina, il Camgesic, il tramadol, Contramal, il ketorolac, toradol, il metamizol, Novalgina. Bene, se io ve li do e vi dico che ve li do, l'effetto è 4, è una gradazione arbitraria tanto per farvi capire. Se io ve li do di nascosto, vi do la stessa morfina, lo stesso contramale, eccetera, ma non vi dico che ve l'ho dato, voi non avete che un beneficio modesto. Modesto sì, perché l'attività farmacologica, questi farmaci ce l'avevano, ma non è presente un concomitante effetto placebo, perché non c'è consapevolezza di ricevere il farmaco. i mediatori, le robe che produce è un'infinità. Ho tralasciato gli ormoni, ma molti ormoni sono anche prodotti. L'organismo produce, e quando dico organismo dico cervello e midollo allungato e spinale, produce endorfine o piaceni endogeni, encefaline pressa poco la stessa cosa, morfina pura. Si è dimostrato che ogni neurone singolo può produrre morfina identica a quella sintetizzata dall'industria. Marijuana, dopamina, serotonina e anche altri neurotrasmettitori, noradrenalina, adrenalina, eccetera. Il fenomeno più studiato, questo è l'unico un pochino più difficile, ma lo andiamo facile subito, è l'analgesia da placebo, cioè la capacità che una sostanza fatta di niente, è stata definita da una rivista, il placebo è una medicina fatta di niente. Bene, che ha la capacità di questa sostanza fatta di niente di togliere il dolore. L'analgesia da placebo è il fenomeno più studiato, ma non è l'unico, e lo vedremo. Allora, martellata sul piede, non sul mio, spero che ne sia abbastanza, e la sensazione di dolore sale al cervello e mi porta due informazioni. Una, che questa sensazione che mi arriva fa male. La seconda, che va in altre zone, almeno in un'altra, ma anche di più, la qualità, l'intensità del dolore. Un conto è il dolore montare su un sassolino, un conto è il dolore mettere il piede su una roba infiammata. Il cervello immediatamente, spontaneamente, senza che vi sia consapevolezza del soggetto, non è che il soggetto dice adesso procura, emette endorfine, che è come dire produce eroina, produce oppio. Questo oppio va giù e, il segno meno vuol dire inibisce, inibisce il dolore. C'è un sistema antidolore di produzione oppiace endogena. È dimostrato che è così, perché se io uso un inibitore dell'endorfine che mi impedisce che le endorfine agiscano, l'effetto placebo scompare. Quindi le endorfine mi fanno passare il dolore, ma se io uso il naloxone che mi blocca le endorfine, il dolore non passa. Ma contemporaneamente l'intelligenza biologica è tale che ci si è posto il quesito: se questa liberazione di analgesici spontanei fosse talmente grande, non ci sapremmo difendere con intelligenza dal dolore. E allora il cervello produce contemporaneamente una roba che si chiama colecistochinina, CCK, che nella mia disciplina era usata per procurare per stimolare la produzione di enzimi pancreatici, non di succo ma di enzimi, che però ha un effetto diverso, e ha un effetto inibitorio sul naloxone, cioè sull'endorfine. Per cui se contemporaneamente se ne produce endorfine, si produce anche questa in misura abbastanza equilibrata. Se questo per impedire che le endorfine abbiano un effetto controproducente eccessivo nell'organismo. La dimostrazione che è così, che se io metto dall'esterno la probolumide, che non è più in commercio ma si usava per fare la motilità eccetera, mi blocco l'effetto della CCK, mi blocco l'inibizione della CCK sull'endorfine. Quindi un gioco, qualche duro l'ha paragonato, la presenza di CCK e di endorfine, alla polizia e ai carabinieri, sono due strutture a difesa dello Stato, però che si controllano a vicenda per evitare i colpi di Stato. Quindi funzionano tutti e due, ma si controllano a vicenda. Di fatto però l'analgesia è questa, e la dimostrazione più celebre è stata fatta durante l'estrazione del dente del giudizio, che tutti sappiamo che non aveva uno scherzetto come dolore. Ebbene, il naloxone è in grado di impedire l'effetto placebo, a dimostrazione che l'effetto placebo c'è. Poi si è trovato a un certo punto, circa 10 anni fa, un po' di più, 2005, è stata pubblicata anche su quell'ottima rivista che è Le Scienze, che siamo pieni di sostanze, di aree cerebrali con recettori per la marijuana. Ora, sia che l'origine dell'uomo sia divina, sia che non sia divina, è difficile pensare che si creino delle aree predisposte a ricevere marijuana in previsione che dopo 3.000 anni ci saranno i droghini che si fumano mangiare. Vuol dire che aveva un significato biologico diverso. Infatti lo è, perché l'organismo produce endocannabinoidi del tutto identici come azione alla marijuana sintetica, ma completamente diversi come struttura. Ha bianco e nero, ma l'azione è la stessa. Ora, era impossibile che queste aree ci fossero senza che ci fosse un ruolo fisiologico degli endocannabinoidi. Infatti c'è, e l'effetto placebo passa attraverso questa liberazione. per tirare dritto quanto dura questo effetto placebo, visto che può essere, e poi vedremo in quali condizioni, non tutte le malattie sono uguali, non tutti i dolori sono uguali. Dice, ma quanto dura? Dura in generale, studi importanti, controllati, lunghi, non ci sono, ma ci sono elementi abbastanza suggestivi per poter dichiarare la seguente cosa, che dura poco. Tanto è vero che questo grande clinico del passato, Trousseau, i colleghi in sala, Lucchini, eccetera, si ricorderanno il segno di Trousseau, che si batteva sul massetere per vedere se entrava in contrazione il nucleo massetere, e diceva, quando non sapeva nulla del placebo, ma aveva capito che i farmaci durano poco tutti, e diceva la seguente frase, usa subito i nuovi farmaci, finché sono efficaci, perché si è già accorto che dopo poco anche i farmaci si immaginassi il placebo. Quali sono le condizioni che rispondono al placebo? Praticamente tutte, ma in misura molto diversa a seconda della gravità e della comorbidità, eccetera. Voi vedete, si va da un 30%, la febbre da fieno risponde poco, a un 80% la crisi schizofrenica, che risponde fino nell'80%. In mezzo ci sono condizioni sia di tipo funzionale, come il colon irritabile, la dispepsia, sia di tipo anatomico, l'artrite reumatoide, l'osteoartrite, che fanno male, che rispondono intorno in media al 50%. Troverete qui, e dopo avete dimostrazione, che ci sono delle situazioni in cui il placebo farmacologico, che è qui, l'angina pectoris, il dolore stenocardico, il preinfarto, l'angina pectoris, il placebo farmacologico ha una media di risposta del 40%, il placebo chirurgico ha una media che arriva fino al 60%, perché se fate un placebo chirurgico le attese del paziente che accetta di sottoporsi al bisturi sono molto più forti e quindi il placebo chirurgico è più forte, più bravo del placebo medico. La variabilità è un fenomeno ben noto e vi faccio vedere due esempi molto semplici. Questo è stato un tripudio per noi gastroenterologi, che potevano contare anche sull'inserimento di Lucchini, che dopo ha tradito la causa perché non c'era posto, ma se non sarebbe stato un gastroenterologo. È stato il primo studio controllato in Italia per introdurre il famoso Tagamet, la cimetidina, e per la prima volta noi gastroenterologi, guardando con l'endoscopio, abbiamo visto l'ulcera cicatrizzare in 4 settimane. Non succedeva mai, facevamo le cose più impensate, il tribenzoica C, il calcio, niente. Però 5 gruppi vengono scelti dalla ditta inglese che la produceva sulla base di una certa, diciamo, prestigio europeo, e sono Bologna, Milano, Bolzano, Napoli e Torino. Voi guardate, e queste sopra sono le percentuali di cicatrizzazione in 4 settimane dell'ulcera, queste sotto sono le percentuali di cicatrizzazione nelle stesse sedi con il placebo. Guardate la varietà enorme. 16% di guarigione placebica c'è la Bologna, Bolzano il 45%, il Torino il 30%. Ma se pensate che questo possa dipendere per il fatto che io ero più simpatico di Bianchi Porro, no, perché anche nella stessa sede ci sono differenze incredibili. Questo è, in 10 anni di sperimentazione nel mio reparto, dal 73 all'83, si sono sperimentati i seguenti farmaci. Queste sono le percentuali di cicatrizzazione anatomica indotte dal placebo. Voi vedete che negli anni una volta si guarisce al 40, una volta al 20, una volta al 60, una volta nello stesso gruppo, lo stesso primario, gli stessi assistenti, le stesse tecniche, lo stesso ambiente che può influire, erano uguali, eppure il placebo è variato anche di 30-40%, per dirvi che è un fenomeno estremamente variabile. Un'altra cosa che altre volte ho fatto vedere in un altro contesto, ma che vale la pena di considerare, e che vi dimostra la consistenza del placebo vera e non, è la compliance. L'ho già detto un'altra sede, un'altra volta qui alla biblioteca. La compliance è la serietà con cui il soggetto, il paziente, fa la cura che il medico gli ha prescritto. Serietà come posologia: devo prendere 4, ne prendo 4 invece che 2 e mezza, i tempi di assunzione, dopo mangiato, prima di mangiare, insomma uno deve seguire quello. Se noi non seguiamo in maniera con un'osservanza perfetta ciò che ci viene prescritto, possiamo alterare fortemente, e se poi non prendiamo i farmaci non abbiamo nessun effetto. C'è una famosa frase inglese che dice, lo dico in italiano, i farmaci non funzionano se non vengono assunti. Sembra banale questa roba qua, ma invece è così. Io che vengo da mesi di condotta appena laureato per sopravvivere, trovavo credenze piene di medicinali non assunti. E se non li dai succedeva sommosse popolari, ma dopo non si prendevano. Bene, questo posso capire, devo prendere due antibiotici, quattro antibiotici per guarire, non voglio dire l'otite perché ci verrebbe il crepacuore, anche se dopo ricorderemo questo increscioso fatto, devo prendere quattro antibiotici, ne prendo uno. Allora il fallimento dipende dal fatto che non ho preso il 25% di quello che dovevo prendere, ma si trattava di un farmaco ad azione farmacologica specifica. Ma se io ho una capsula vuota, è difficile pensare che una capsula vuota sia meno efficace di quattro capsule vuote, perché si tratta sempre di mettere dentro delle capsule vuote, e invece non è così. Guardate qui, in situazioni importanti, quello che in medicina si chiama è i parametri di giudizio forti, esiti forti. Uno sono l'uso di antibiotici in soggetti operati di cancro che vanno incontro a infezioni post-chemioterapia. Bene, lasciate stare cosa succede col farmaco, che è comprensibile. Guardiamo nel gruppo placebo. Se questi soggetti con infezioni post-chemioterapiche già operati di cancro assumono il placebo in maniera regolare, hanno questa infezione nel 32% del caso. Se non prendono in maniera regolare il placebo, nel 64%. Quindi dando acqua fresca, ma se non la prendo regolarmente, l'effetto placebo diminuisce la sua intensità. Qui avete un'altra cosa, altro parametro forte, morte a 2 anni in soggetti che sono in trattamento con un antiaritmico midolare. Bene, se io prendo regolarmente la midolarone ho un decesso a 2 anni dell'8%, se non lo prendo 19%, quasi 3 volte tanto. Questa è un'ulteriore drammatica dimostrazione della potenza dell'effetto placebo. Su quali meccanismi si basa questo placebo? Su fenomeni di condizionamento, di aspettative, di riduzione dell'ansia. Allora, esempio di condizionamento: soggetti con sclerosi plaque, li tratto con intravena di ciclofosfamide e un antitumorale, e per bocca li do del sciroppo all'anice. L'effetto collaterale di questo qui è una diminuzione dei globuli bianchi. E quando osservo questo, divido questo gruppo di pazienti in due. Alcuni continueranno a prendere come prima la stessa ciclofosfamide più sciroppo all'anice senza nessuna modifica. Nel secondo caso la ciclofosfamide viene ridotta del 99%, ma li do sempre lo sciroppo all'anice. Dopo il controllo di mesi c'è una riduzione numerica che è maggiore qui, è come quella che era prima, ma non è da buttare via neanche in quelli in cui hanno preso soltanto l'1% del ciclofosfamide. Sono stati condizionati dall'effetto precedente terapeutico. Questo invece è un po' più complicato, è l'importanza delle attese. Io mi aspetto una cosa, questo influenza quello che mi succederà. Allora, nello studio A, coinvolgo i pazienti, faccio 2 gruppi e dico, siete d'accordo, partecipate a questo trial. Alcuni di voi prenderanno caffè ricco di caffeina, alcuni prenderanno caffè senza caffeina. E poi vediamo cosa succede. Accettano. Dall'altra parte studio B è aperto, si imbrogliano i pazienti e gli si dice che gli sarà dato del caffè con grande quantità di caffeina, mentre non si dà nessun milligrammo di caffeina. Quelli che credono di prendere caffeina in grande quantità hanno più effetti collaterali da caffeina di quelli dell'altra parte, sia di quelli che non hanno preso caffeina sia di quelli che hanno preso caffeina, perché l'attesa ha prevalso sulla farmacologia. Guardate questa è l'effetto placebo dell'ambientazione, dell'empatia, del carisma dello sperimentatore o di chi vi assiste. Bene, qui è una stimolazione esofagea, che non è proprio un gelato alla crema, c'è una robina che va dentro, è tipo una gastroscopia, insomma non è piacevole, però viene fatta dallo sperimentatore, dal tecnico che introduce il tubino, che ha questa faccia qua. Sarebbe mia zia Maria per lei. guardate cosa succede in questa fase qua. È la stessa cosa, lo stesso tipo di esame, ma il tecnico che vi fa l'esame non vi incoraggia a essere sereni e vi alimenta l'ansia. Guardate le ansie, sto ritardo, non capisco, verranno con ritardo, vieni, dai, vieni. Ecco, quando era buona, quello che avevo dimenticato di sottolinearvi, vedete che non è una questione psichica, si attivano durante il dolore, però attenuato da questa faccia solare, si attivano precise aree cerebrali documentabili o con la risonanza magnetica funzionale o con la PET, quel che volete. Quando io faccio le stesse cose e cambio la faccia della tizia, che è lenta anche, oltre che più brutta è anche più lenta a comparire, infatti non viene proprio stavolta. Dai. Eccola. Vedete che le aree, a parità di stimolazione esofagea, a parità di disagio del paziente, sono completamente diverse. Per dirvi l'importanza che ha l'approccio e la vicinanza della persona che vi fa le cose. Ve lo salto. L'importanza del prezzo è un'altra dimostrazione enorme, anche questa l'ho fatta già vedere in un altro contesto. Studenti che accettano di fare, soli studenti senza skate, accettano di fare uno esperimento in cui gli si dice: vi faremo una scarica di energia dolorosissima al polso, se accettate di fare questo, e sono pagati ciascuno $30, 60.000 delle vecchie lire, accettate di farla. Accettano e dice: guardate, un gruppo riceverà, vi daremo anche un analgesico, una pillola di questo analgesico costerà $2.50, e quell'altro gruppo riceverà una pillola che costa 0,10 cent, quindi 20 volte da, ma è la stessa pillola, loro sanno che costa solo molto meno. Bene, anche quella che costa molto meno toglie dolore nel 56, in la metà dei pazienti trattati con scariche di forte intensità, ma se sono convinti, se sanno di prendere una pastiglia che costa 20 volte di più, l'effetto analgesico arriva all'80%. Okay? L'effetto placebo, vi dicevo, non è solo un farmaco, questo è un intervento chirurgico, questo è un intervento su cui la cui immoralità sorvolo per far prima. Si trattava di imbrogliare i pazienti, oggigiorno non sarebbe più possibile, dicendo che pazienti catorci dal punto di vista cardiologico, con infarto pregresso, impianto di protesi, eccetera. Bene. E non riuscivano a fare le scale. Bene, facciamo così: vi leghiamo le arterie mammarie che portano sangue ai seni, e se questo sangue che dovrebbe andare ai seni non va ai seni, lo convoliamo verso il cuore, che è ischemico. Quindi, concettualmente parlando, c'è un minimo di logica. Bene, si fa questo esperimento, quelli imbroglianti vengono sedati, anestetizzati, gli si taglia la pelle, si mette a nudo le arterie mammarie, ma non le si legano, le si rimettono dentro, e i pazienti si ritrovano la mattina tutti fasciati, alcuni sono stati operati, alcuni no. Bene, quelli che sono stati operati per finta hanno avuto un miglioramento clinico, elettrocardiografico e scintigrafico dell'83%, quelli che sono stati operati per vero hanno avuto un miglioramento del 67%. Questa è ancora più inquietante. Questa seria, comitato etico, in cui c'è spesso anche un prete, accettano di fare questo esperimento perché i chirurghi stessi che avevano inventato questo tipo di trattamento volevano verificare se stessi. Cioè dice, buchiamo con un laser, un tubino che lancia laser, fa delle fessure, dei microcanali laser, nella zona ischemica, e facciamo arrivare così più canali, il sangue va dentro questi canali nuovi e irrora la parte. E allora a un certo punto, poco convinti anche loro, anche se il risultato c'era, fanno questo studio controllato su 300 persone. 100 beccheranno un alto dosaggio, e cioè si formeranno dai 20 ai 25 microcanali. Altri basso dosaggio, dai 10 ai 5. Nel terzo il placebo era rappresentato dal tubo che va a finire nella cavità cardiaca, ma che non spara assolutamente l'asino. Quindi un vero placebo. Moralmente accettabile perché c'era un consenso informato. Vedete che quelli che non ricevono niente migliorano decisamente di più di quelli in cui sono state create i microcanali. Questa E un'altra, importante da ritenere, craniotomia, anche qui non è di levare l'unghia incarnita. I soggetti con Parkinson grave hanno una vita tragica, mentre il Parkinson medio si sopporta abbastanza bene e le facoltà cognitive restano a lungo conservate. Bene, ma il grave è grave, ed era una malattia di cui ci si vergognava, vi ricordate anche qualche papa che aveva il Parkinson, tutti quanti, non bisognava dirlo, invece non è una malattia venerea, non c'è niente da vergognarsi. Bene, quelli che arrivano a una situazione di immobilità, di non autosufficienza, eccetera, siccome la malattia è legata a una depauperazione di una sostanza che si chiama aiutami Lucio, il Parkinson è legato alla rarefazione di un mediatore di dopamina. Allora hanno detto, se noi questi malati facciamo un buco nel cranio e li mettiamo dentro delle sostanze ricche di dopamina, può darsi che recuperiamo anche i malati più gravi. E cosa hanno fatto? Alle madri che hanno perso il loro bambino, ai feti, invece che buttarli via, ha detto guardate, invece il dolore è quello che è, invece che buttiamo via queste piccole creature, se me li lasciate prendiamo la sostanza nigra del cervello di questi bambini e li cacciamo dentro negli ammalati gravi. 2/3 delle madri hanno accettato. Bene, 3 tipi di sperimentazione, in alcuni soggetti è stato iniettato con craniotomia bilaterale la sostanza nigra, che è quella ricca di dopamina, di un feto soltanto, in un secondo gruppo la sostanza nigra ricca di 4 feti, in uno soltanto la craniotomia, sono arrivati lì e non hanno buttato giù nulla. Non c'è stata nessuna differenza clinica significativa nel trattamento di questa roba. Tanto, grandissimo disegnatore questo, che dice, la signora guarda il taglio e dice, sembra come se fossi stata operata. E l'altro dice, questo è ciò che conta, che lei creda di essere operata. Qualche volta è più importante credere di essere operati, il che non significa, non è un grano di sale, non significa che la chirurgia è tutta plagia, per fortuna non è così, e viviamo 80, 100 anni anche grazie alla chirurgia, ma per dirvi che anche nella chirurgia ci sono ambiti in cui il suo effetto è soltanto puramente placebo. Depressione. La depressione lieve, moderata, non la grave, è una malattia in cui il placebo raggiunge il massimo dell'efficienza. In pazienti da 6, da 9, 16 anni, solo Prozac, tra 14 antidepressivi in commercio e in uso anche attualmente, risulta lievemente più efficace del placebo. Solo il Prozac, tutti gli altri non sono migliori del placebo e costano molto di più di acqua fresca. Il 75%, 80% dell'efficacia complessiva del Prozac è legata al suo effetto placebo. Aggiunge un po' la sua componente di farmaco specifico, ma del 15-20% la gran parte è semplicemente placebo. Anche in questo caso si attivano aree cerebrali quando usate sia la fluoxetina per l'80% placebo, per il 20% farmacologico specifico, però le aree sono, alcune sono uguali, altre sono diverse. Qui c'è studi magnifici in cui non posso soffermarvi, ma non è sterile la roba. Il prendere un farmaco che ha un'attività, ma che ha anche incorporata un'attività placebica, fa modificare aree che alcune volte sono in comune, altre volte no. Questa è bellissima ed è l'ultima, un po' difficile, poi ho quasi finito. Allora, Valium nell'ansia, somministrazione del Valium in soggetti con ansia e sospensione del Valium a sinistra. Bene, il open vuol dire dichiarata, torniamo al discorso di prima, e quindi il nero è dichiarato. A questo punto questi sono, hanno uno stato di ansia importante, li si dice, quindi open, li si dice che li si darà il Valium, l'ansia cala della metà. E gli altri che non lo prendono restano con ansia. Quando passiamo alla sospensione dal grado zero, se io sto zitto, se io dichiaro di sospendere la cosa, se io dichiaro di non sospenderla, colonnina bianca, resta tutto uguale. Se io dichiaro di sospenderla, c'è il peggioramento immediato. Anche in questo caso la consapevolezza di dare o di non dare è importante nel condizionare. Eccovi il vostro Vittorino Andreoli, che in un primo volume che avevo fatto nel 2004 ero coinvolto nel fare la cosa, e abbiamo discusso: ma se è così forte la psichiatria, la psicoterapia, non potrebbe trattarsi soltanto di un effetto placebo, perché non è dimostrabile in studi, non è che potete fare una terapia psichiatrica e una terapia psichiatrica placebo, se non è materialmente possibile. Allora lui, che è una persona intelligente, una donna, ma intelligente, dice: se esiste un feeling spiccato tra medico e paziente, le psicoterapie possono aumentare le aspettative di un miglioramento fortemente desiderato, non c'è dubbio. Le sedute multiple poi possono facilitare il rapporto medico-paziente. Più carisma, più fiducia c'è, voi aumentate questa disponibilità. Questo vale anche per la psicanalisi, e poco importa se la verità che affiora è assoluta o solo una verità qualsiasi. Se voi migliorate perché il psichiatra vi ha detto che avete visto un uomo nudo dietro un camion che faceva pipì, oppure non avevo niente, siete migliorati perché vi siete fidanzati con Giuseppina, eccetera, non conta. L'importante è che la spiegazione che vi viene data ha indotto in voi un miglioramento. E Vittorino Crolli non è sicuramente un rivoluzionario, ma in generale i psicoterapeuti gli piace poco che gli si dice che il loro effetto è placebo. Effetto placebo e fede. Germania, durante la visita in agosto, siamo al Papa precedente, il Papa lo ha benedetto, quel bimbo è guarito. Ci porta all'affermazione di Armando Pavese, un intelligente uomo di Chiesa, morto da poco, che ha addirittura invitato un mio collega del CICAP a passare dei giorni insieme per discutere di queste cose, e che afferma la seguente cosa: gli effetti del credo religioso sono potenti strumenti di benessere fino ad acquisire la forma e la struttura di una terapia. E Don Renner, interpellato contemporaneamente a Vittorino Andreoli, se la cava così: se è efficace la fiducia nel terapista, può non essere la fede in Dio? E c'è una sua logica. Se abbiamo detto che il carisma, la fede, la fiducia, se uno invece che credere nel dottore crede in quel dottore più grande che Dio, non c'è possibilità di obiettare. C'è una differenza fondamentale, secondo Renner, sta a voi a giudicare, tra le varie magie e la fede. La magia prevarica sostanzialmente il soggetto e lo condiziona con formule o pozioni. La fede coinvolge il soggetto, che deve anche lì impegnarsi a reagire grazie alla forza della natura, cioè Dio li mette a disposizione. Ma sul placebo non si è pronunciato. D'altra parte non c'è niente di male, la famosa frase che c'è in tutte le lingue, aiutati che il cielo ti aiuta, è perché se noi abbiamo in noi la forza di produrre delle cose, e questa forza ci viene data dalla fede invece che dalla raccomandazione del primario del ragazzo di teologia, è la stessa cosa. Tanto è vero che producete quello che vi fa stare meglio. Ben oltre la CEI siamo arrivati, ma qui siamo a livello un po' più basso, delle conferenze che Valeria ha organizzato sull'infinito, dove ci voleva molto alto, qui vogliamo un po' più basso, e vediamo che tutta una serie di santi continuano ad avere specializzazioni precise in medicina. E Sant'Armadio cura la gotta, e San Giacomo il Maggiore i reumatismi, San Livino la sciatica, e San Martino di Tours specializzato in dissenteria, e Santa Lamè frattura degli arti, Santa Pollonia mal di denti. Quindi quando moliamo il freno della logica, finiamo nella inconsistenza. Questa solo per dirvi, questa è una grossa insegnante di bioetica, molto cattolica, molto brava, molto intelligente, sfortunata, che insegna a Torino bioetica e anche a Roma, e che insiste che queste cose che vi ho detto sul placebo devono essere elemento di didattica durante l'università, perché il placebo ha a che fare con la medicina sia convenzionale e soprattutto con la medicina alternativa. Qui ve lo metto solo perché è quello che solleverà più scalpore in chi leggerà il libro: il doping fatto con placebo. Questa la riconoscete, faccio spesso il misto con lei, come sapete, prendendo il meldonium, che era lecito fino a un anno, fino al 15, è stato poi nel 2016 è stato considerato sostanza dopante, un caso attivo, e allora è stata espulsa per un paio d'anni dall'attività. Bene, in effetti esiste un effetto placebo legato al doping. i parametri di performance che hanno dimostrato in una meta-analisi di 14 studi sono tutta roba che importa in chi fa sport: potenza muscolare, velocità, frequenza cardiaca, percezione dello sforzo, tolleranza alla fatica, sopportazione del dolore, stato d'animo post-gara. Ma guardate questa. Questo è il conto di quanto si può guadagnare in soggetti che praticano soprattutto questi sport qui: calciatori, tennisti, cestisti, rugbisti, pallanuotisti e soprattutto pesisti. Bene, l'intervallo complessivo in cui si è potuto documentare un effetto positivo placebo nel come momento dopante varia da meno 7 a niente, quindi a più 50, il medio è 40, ma soprattutto il prevalente è intorno tra l'1 e il 5%. Ma un 5% di prestazioni migliorate in alcuni sport, come il sollevamento di peso, è in grado di far vincere il campionato del 5%, è enorme in sport. E se voi vi accorgete, molti ricorrono ad situazioni placebiche fatte soprattutto di autoipnosi. Vi ricordo per i tennisti Frangipani, eccetera, Arthur Ashe, ha avuto un grande intervento al cuore, lui faceva un'autoipnosi con cosa sulla testa, si concentrava e si autoipnotizzava. E se voi guardate la Sharapova, è da circa 3 anni che fa sempre gli stessi movimenti con la testa bassa, va verso il muro, si gira, non guarda, e evidentemente è un discorso controllato per farle aumentare il tipo di attenzione. E anche il levare il senso di fatica è una cosa che... Sono quasi puntuale perché ho cominciato un po' tardi, ma ho finito quasi subito. Il placebo riguarda anche altri aspetti della medicina, meno interessanti per voi forse, ma interessanti per la vostra salute sì. È che il placebo è l'unico espediente non privo di lacune per cui possiamo dimostrare che un farmaco effettivamente è efficace o no. E si usa nei trial, negli studi controllati, che si chiamano controllati in doppio cieco. Perché? Perché il paziente che accetterà, in base a un consenso informato di un comitato etico, accetterà la possibilità di ricevere placebo al 50% e quell'altro prenderà il farmaco, ma nessuno sa quale sarà. Quindi il paziente è cieco sul farmaco che prenderà. Sa che potrà essere uno o l'altro. Il medico che sta organizzando il trial farà la stessa cosa, sa che a qualcuno gli darà il placebo, qualcuno anche lui non sa cosa. E se si tratta, come nel mio caso, della valutazione di una cicatrizzazione dell'ulcera, è cieco anche l'endoscopista, che non deve sapere se quello che lui sta guardando dentro viene dalla terapia col farmaco o dalla terapia col placebo. Si è proposto infatti l'addizione terapia in triplo cieco solo per questo, ma non ha preso. Bene, il problema per ridurlo all'osso è questo: abbiamo un effetto placebo che si aggira, come abbiamo visto, sul 40% con oscillazioni a seconda della patologia. Se gli do un qualche cosa, un farmaco che provo a vedere se c'è qualcosa di nuovo ed è un po' più attivo, un po' non mi basta, perché potrebbe essere casuale. Deve avere una tale superiorità da rispondere ai requisiti della statistica. Deve essere grosso modo il doppio dell'effetto placebo. Quindi se l'effetto placebo mi dà un miglioramento del 40, un farmaco sarà attivo, mi darà un miglioramento dell'80. Lucio Lucchini qui potrebbe aggiungere, lo aggiungo io per lui, che non basta che l'attività sia significativamente superiore a quella del placebo, deve essere anche significativamente superiore clinicamente. Cioè, se noi facciamo i suoi pazienti peggiori 150 kg, facciamo uno studio controllato e con un farmaco dimostriamo che su 2000 individui riusciamo a portare i 150 kg a 145 kg, il farmaco risulterà efficace per far calare di peso, ma la differenza tra 150 e 145 clinicamente è ridicola. Quindi deve essere significativo sotto il profilo statistico, ma significativo anche. Pensate, questa è una delle ultime, tanto per darvi uno spaccato fedele, che di preparati essenziali esistenti ce n'è circa 350, su cui sappiamo tutto sia di efficacia e di sicurezza. Guardate i farmaci in commercio. In fascia C, preparati da banco, uno va, fa quel che vuole, compra, 6.000. Omeopatici, 120.000. Parafarmaci integratori, 400.000. Questi sono quelli su cui possiamo contare. Per quanto riguarda, stiamo finendo, è stata importante la dimostrazione attraverso studi controllati contro il placebo di enti indipendenti in tutte le parti del mondo, a dimostrare dal 2002 che c'è una frana di documentazione di efficacia dell'omeopatia. Sono tutti falliti dal 2002 al 2004, in tutto il mondo tutti lo sanno, ma tutti continuano anche a favorire i propri figli. La dimostrazione parte dal 2002, quindi diciamo 20 anni fa, 2017 è stato costretto a furor di popolo uno dei miei miti e anche maestri dal punto di vista metodologico, Silvio Garattini. Siamo 24 febbraio 2017 e con questo titolo: i prodotti, gli ambulatori omeopatici non ingannano forse il pubblico? Il probabile beneficio clinico iniziale e transitorio indotto dall'omeopatia può ritardare l'approfondimento diagnostico e l'attuazione di terapie efficaci anche a salvavita. È esattamente quello che è successo col bambino di 7 anni di Pesaro, morto ad Ancona. Ogni avallo, e questa è la cosa più importante, peccato che non ci sia un sacco di politici qui a sentire interessati a questi argomenti, ma avranno cose molto più importanti da fare, ogni avallo istituzionale che faccia sostituire terapie di documentata efficacia con terapie fasulle è complice di pericolosa disinformazione e di costi immotivati. 27 maggio 2017, qui siamo 2 mesi dopo, bimbo di 7 anni, come sapete, è morto. Veramente stringe il cuore, perché siamo arrivati al punto che poi chi si sanziona? Ci sono dei genitori che non denunciano neanche il medico perché credono talmente tanto all'omeopatia che preferiscono che il bambino muoia e di non denunciare neanche. L'ordine dei medici se ne frega largamente le mani, in linea di massima, tranne le eccezioni. Si comincia adesso a muovere qualche cosa, insomma è una patata calda che nessuno vuole avere perché ha dei risvolti politici. Ultima: quando il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito. Quindi da tutta questa pappardella di cose che vi ho detto, nel modo più semplice possibile, è per dire che i nostri giudizi soggettivi sono carta straccia, anche quando lo applico a me stesso questo dubbio. Guardate questa cosa molto interessante. Giudizio di 100 donne su pregio, stile ed eleganza dello stesso abito di classe a seconda di come viene presentato. Abito di classe con etichetta di marca, lo stesso abito di marca ma senza etichetta, stesso abito di marca con etichetta da mercatino del martedì. Il giudizio della bellezza dell'abito è questo: l'abito con l'etichetta di marca è giudizio positivo quasi il 90% delle donne. Quando non è l'etichetta il 50%, quando non ha l'etichetta da mercatino ed è lo stesso abito l'8%. Ora, secondo me queste cose dovrebbero far pensare un po'. Poi se uno quando vede queste cose non pensa, auguri. Per concludere, il placebo, per tutto quello che vi ho detto, può essere visto con diverse angolature. Questa è molto simpatica, l'ha fatta Thompson ancora nel 2000. Gli scienziati lo considerano incredibile. I trialisti, quelli che fanno gli studi, una difficoltà in più perché devono controllare contro il placebo. I filosofi sconcertanti, i moralisti colpevoli perché la persona non deve mai ricevere un placebo se è già in commercio un altro farmaco. E quindi qualche cosa di vero c'è. I politici è incomprensibile, ma soprattutto se ne strafregano. Psicologi inevitabile, medici indispensabile e i ciarlatani convertibile. Quindi in molti aspetti sono visti e definiti in maniera diversa. Questo è quello che vi ha detto prima la Valeria Trevisan per spingervi a comprare questo libro, e questa è una curiosità di quello che faremo a fine anno, forse anche qui, e si chiamerà, la prossima roba è già in stampa ma non lo facciamo uscire prima di novembre, Giorgio Dobrilla, processo della medicina, alla medicina e ai medici, divagazioni semiserie su celebri citazioni. La roba e la prefazione sarà di Gerardo D'Amico, che conduce sul Rai Zoom 24 Basta la Salute, ma io l'ho fatto vedere perché la copertina è di frangipane. e frangipane per farla come la fare gratis. Scusi, non ho capito. Stavo organizzando un po' di lavoro sulla cucina. Ad esempio adesso ecco, stavo organizzando un po' di lavoro sulla cucina. Mi ha assicurato, ho perso il controllo, mi ha assicurato di mano. Ecco, volevo la testimonianza su un aspetto contrario di flagello. Avevo ai piedi un cazzavo intradito, quindi piede allo scoperto. La mia sensazione di dolore è partita subito dal cervello, perché il coltello cadeva proprio dritto sui piedi e ho fatto che era strato. Però prima di questo gesto io ho avuto la percezione, e questo lo posso giurare proprio dalle dicono, io ho avuto la sensazione pungente di avere il piede tradito, quindi io ci siamo presi, ho provato praticamente quello che è un principio di placebo al contrario. Penso che sia sul cervello percepito, penso che sia assolutamente plausibile. Tra l'altro, negli studi con le aree cerebrali si è dimostrato che qualche volta l'attivazione delle aree cerebrali, sia per il placebo che per il placebo, precede anche di un giorno o due l'effettivo manifestazione del disturbo. Non c'è un rapporto, si accende quell'area e io ci vuole una situazione basata nei distinguo, ma è possibilissimo quello che lei ha detto. Se questo effetto produce una spiegazione anche evoluzionistica, La seconda è questa: si possono sottoporre le persone a trattamenti ed esercizi per ridurre la speranza l'effetto del placebo? È un meccanismo difensivo che abbiamo addosso. Che il mio sistema nervoso sia pronto a liberarmi un po' di serotonina quando sono depresso e mi tiro su di nuovo, che mi faccia ridurre il dolore, dimostrazione pratica. Lei ha un mal di denti in carrozza, un mal di piedi, deve parlare in pubblico, mentre parla in pubblico il suo senso di dolore si attenua, perché l'effetto placebo lo copre, quindi è un effetto tutto sommato difensivo, non vedo perché dovremmo scattare. La prima domanda è una domanda acuta, non saprei rispondere se ha un senso evoluzionistico, perché da un punto di vista dovremmo pensare che si è evoluto in maniera tangibilmente e concretamente dimostrabile il nostro sistema nervoso centrale. Non mi pare che siamo molto cambiati, se mi ricordo ancora che 3.000 anni fa si puliva il medico che aveva male grazie sul paziente e si puliva il marito che colpiva, non mi pare che di grandi evoluzioni mentali ce ne siamo fatti. Quindi penso è possibile, una osservazione pura, non penso che ci sia un potenziale evoluzionistico del placebo. Penso che ci sia la possibilità di capire ancora di più, perché per esempio è stranissimo che il placebo di certe cose fa esattamente quello che fa il farmaco attivo, ma attiva aree cerebrali che sono diverse. Noi lo diamo un po' per scontato, ma perché? Se c'è un'area deputata a non farmi sentire il callo, perché ce ne deve essere anche un'altra, visto che la natura non lavora molto in tranne in alcuni settori. In alcuni settori la natura lavora ad abbondanza, di ovvi ce n'è, mobiliari che siamo un figlio, di spermatozoi ce n'è, però in generale se c'è una cosa non c'è un'altra, il cuore è uno solo, no? Quindi non so, curarsi che sia, no? Se devo giudicare dai 5.000 anni in poi come è cambiato l'uomo e la reazione placebica o nocebica l'uomo, sarei piuttosto dubbioso, ma non è possibile, non so perché. Si è specificato sul tema che è tutto ciò. Certamente. Allora, mi racconto questa che è un tagliatezzatore di diverti. Allora, c'è una ditta di Liliana che sosteneva che con i preparati omeopatici i polli crescevano meglio, facevano più uova, non so se può riparare e avevano una mossificazione. Allora a un certo punto di la paragona che il centro di CICA, di cui faccio parte come consulente medico, ha proposto di fare con fatica, diciamo, uno studio controllato, 5.000 pollici, significa le volte dice 5.000 pollici per sua casa. Allora 5.000 sono stati trattati in cieco con i neopatici, 5.000 sono stati trattati in cieco con e lo studio è stato così raffinato che hanno saturato l'Istituto di Radiologia di Padova per fare l'attacco dei polli. Quindi si è controllata anche l'ossificazione dei polli. Non c'è stata la neanche minima differenza tra danni che questi formati. Altra roba dei polli, le vacche che producono poco latte, uno dei trattamenti è iniezione intramuscolare di ossitocina. Vengono fatte le vacche continuano a produrre la mattina più. A un certo punto, era già previsto nella progettazione dell'esperimento, viene fatta la stessa ora, la stessa persona, la stessa stalla, iniezione di la puntura della vacca, però dentro c'era soltanto la stessa condizione fisiologica. La vacca continuava a fare latte come se ci fosse stato il corso. Mi chiedevo se può esistere anche un effetto placebo per procura, ma purtroppo non c'è anche la singola esibitata per procura. Nel senso, mi è venuto in mente quando ho sentito sui giornali di quello che si è assolato, i nomi che trattavano le cellule sterminali dei bambini con malattie neurologiche gravissime, no? E lì erano più genitori, cioè qui mancava la consapevolezza del soggetto, no? Che è un aspetto importante. Però i genitori vedevano dei miglioramenti che poi non sono stati documentati, questa cosa è un passaggio in più. Poi un'ultima cosa, prima mi fate un letto di giornali per il bambino della terapia omeopatica per la vita, non lo che sembra che la relazione non si è capita, quindi probabilmente sarebbe morto anche con gli antibiotici. In questo caso quindi la prima il problema è diagnostico prima il terapeutico. Questo circolare è seguito, la parte più rilevante è che quando il medico del 118 è arrivato a casa, si è trovato disgraziato questo bambino agonizzante e ha telefonato al medico curante, questo gli ha imposto per telefono di non dare che il suo sveglio può darsi che si esagera, non è una malattia emotiva comunque, non sto condannando il fatto che sono soldi e non può dare nessuno, ma uno non può, quando il medico ti guarda e ti dice che sto bambino non respira più, sta agonizzando e tu gli ordini per telefono di non dargli la antibiotica, tu devi fare questo, punto, basta. Infatti che effettivamente quel bambino è triste e basta, insomma, non ci dispiace tutto. Io volevo chiedere, perché lo facevo quasi, ha fatto fino agli altri medico, perché quasi tutti i medici può sbagliare lì. E cominciano a ordinarsi a fare medicine così. Questa è una società farmacocentrica in cui il malato, se va fuori dal laboratorio del medico senza una medicina, pensa che il medico sia cattivo. Non c'è dubbio che una gran parte dei cittadini è così. Poi c'è una gran parte dei medici che per tirarsi fuori dalle palle, scusi il termine, il medico prescrive un esame o prescrive una medicina. Quindi le responsabilità sono generiche. Il grande è che su questo effetto placebo le conseguenze, perché se venisse usato, se me mi capita la signora anziana, la donna anziana, e mi dice che il fiore di Bach fa il corpo benissimo, senza il fiore di Bach non ci va, io la consiglio di andare avanti a fare il fiore di Bach. Il problema è che il paziente è il centro dell'attività del rapporto medico-paziente, non deve essere quello che penso io, deve essere l'utilità del paziente. Allora, se posso fargli del bene anche dandogli un placebo, perché ho verificato che non c'è altro, perché spesso non si verifica. Molti dimenticate che un mese fa c'è uno con melanoma morto perché veniva curato da un antropaca con un pezzate varie. In Entretino, se vi ricordate, un bambino di 5 anni fa, ho scritto sul giornale, che aveva mucoviscidosi, con bronchiectasie, febbre altissime, eccetera, il medico gli ha sospeso il cortisone e antibiotici e morto in una settimana. Un altro bambino trentino è stato sospeso, Giorgio Radetti, aiuto della clinica pediatrica, del reparto pediatrico di qua, mi ha fatto avere delle caratteristiche di due bambini. Uno aveva diabete di primo tipo, insulino dipendente, e uno aveva un morbo di Addison, cioè una tubercolosi della ghiandola surrenale che si manteneva in vita solo con cortisone e acqua e sale, sostanzialmente. Ha sospeso uno la cortisone e acqua e sale ed è morto in una settimana. L'altro ha sospeso, è andato da una guaritrice omeopata, Armstrong si chiamava, era americana, forse era sorella di Trump, e ha sospeso la cosa ed è morto anche in una settimana. Perché il problema è questo, non è che tanto non fa niente purché sia fatto nell'interesse del paziente. Il farmaco placebo che gli si dà costi il meno possibile e secondo il beneficio iniziale che probabilmente avremo con qualsiasi placebo, visto che ci crediamo tanto, non impedisca di approfondire il senso diagnostico e di non applicare una terapia che già c'è. Sul seno delle donne, sul campo del seno ci sono cose micidiali. E gente che è arrivata a mostrare invece che il seno ben fatto a mostrare la cartilagine delle costa del buco che aveva e si è decisa solo allora a rivolgersi a loro. Quindi normalmente che uno ha una rovina da poco, una mano in testa che prende l'acqua fredda, che prende il bacino sottile che ride, ragazzi, ci dimentichiamo che sono in vendita farmaci, pomate, che se le mettiamo sulla pancia la mattina non abbiamo più la pancia. Nessuno si scandalizza, ma sono delle truffe talmente evidenti. Guarda, dei medici come collaborano con questo placebo, cioè dei medici La gran misura, allora, la grande parte dei medici del placebo non sa assolutamente nulla. E non può sapere. Nei libri di medicina anche recenti, tranne quelli di farmacologia che sono poco venduti, poco pubblicizzati, perché se c'era Clerici che fa il risotto con le ortiche, la pubblica Mondadori, la copre 200.000 persone, e se però uno gli dice non lo copre nessuno, quindi l'ordine dei medici si barcamena. Adesso si è svegliato un po' fuori per la presenza dei vaccini, ma se vuoi finisci tutto qua, sarà 10 anni, non lo dico io, che scrivo questa roba dei vaccini. Adesso salta fuori, abbiamo qui una collega che sa benissimo queste cose, abbiamo un assessorato, tutti in generale, parte altre critiche, almeno non voglio soffermarmi, sensibile al problema delle vaccinazioni. Quindi spende un pronome, 3,3, 4,3, diciamo un bacino di utenza con basso livello di vaccinazione, ma già da anni. Ma nello stesso tempo, adesso due ordini di medici hanno sospeso, o radiato, o sospeso un medico perché non faceva vaccinare. E gli omeopati del centro delle medicine alternative di Milano che non fanno vaccinare, perché noi dobbiamo essere sanzionati. Come facciamo a fare una politica di promuovere la vaccinazione e dall'altra promuoviamo, addirittura c'è stata una metastasi del fatto di Milano, hanno aperto una sezione di medicina alternative a Sinato. Cioè, non è che questo allora che dico cambierà niente, cioè, scusa, a me personalmente mi ricordo diciamo un proverbio che si diceva sul suo destino quando facevamo il liceo del destino, che si diceva che i 10 comandamenti non sono 10, sono 11. E l'11° comandamento lo volete con il destino? Non farsi prendere per il culo.